a me dispiace un po' per Ivan che forse mi ha invitato come a Pap, però Pap è più simpatico. E contando con... questo me lo sto inventando io, eh. Papà ti picchia però. Sì, picchiami, tu vedi. E con un contributo a questa costruzione del noi che lui diceva. Io mi scuso in anticipo perché forse sarò un po' egoriferita, però non posso far finta che non stia succedendo niente. E dunque sono molto in crisi su questa costruzione del noi. Quando Ivan mi ha chiamato per farmi la proposta, che le ho detto di sì, erano i giorni in cui stavo incrociando le dita perché non ci fossero i bombardamenti, perché non dichiarassero la guerra. Stavo, però ha prevalso quello che tutti sappiamo e dunque è successo. Da allora risulta per me molto più difficile pensare a un noi, se per noi si intendeva le persone del nord e del sud che ci troviamo in uno stesso territorio. Mi trovo più in difficoltà perché ora mi sento più di parte, cioè ora sento più di essere una donna del sud. E questo perché qua non possiamo fare un discorso astratto sulla cultura se non partiamo dalle condizioni concrete, da quello che sta succedendo in questo momento. Non me la sento io di parlare di cultura e massimi sistemi se non partiamo dell'oggi e dell'adesso. Quando è successo quello che non sto qua a ripetere alle Torri Gemelle e al Pentagono negli Stati Uniti, penso che tutto il mondo, cioè tutte le persone, si sono dette dispiaciute. Immediatamente è partita questa campagna per colpire il terrorismo, è così che è stato impostato il discorso. E dietro questo di colpire il terrorismo ci sono tante cose che non lasciano molto spazio a vedere che c'è un'ulteriore fessura anche nel sud, anche se non sono di quelle che pensa che quello che è successo sono i desiderati della terra. Non penso che sia questo, però non è possibile che la terra possa sostenere ancora questo sistema iniquo e queste differenze così grosse fra nord e sud del mondo senza che succeda niente. E dalle risposte che vengono fuori non fanno che provocare il fatto che ci sia una radicalità, come si dice, radicalizzazione, grazie, di alcune posizioni che non sono necessariamente le più condivise, le più condivisibili, però è una conseguenza logica, non so se mi spiego quello che voglio dire. Dunque, quando dico che mi sento più parte più del sud oggi e più altra rispetto a questo mondo, a questo noi, in parte perché mi sono sentita molto delusa in un primo momento dall'Europa perché mi aspettavo di più, mi aspettavo che non andasse così tranquillamente dietro al presidente del pianeta dichiarando guerra, che avesse dato un contributo, un pochino di lucidità dicendo se noi andiamo a bombardare lì per catturare una persona o due o tre o dieci, che siano cento o mille, questo scatenerà una serie di altri conflitti che poi non possiamo più sostenere. Però quello non importa a nessuno, perché tanto quelli che muoiono, la stampa non ce li fa vedere con la stessa drammaticità che ci ha fatto vedere quelli che si lanciavano dalle finestre delle Torri Gemelle. Non tutti i morti tolgono uguali, evidentemente, e dunque quelli importa molto meno a un mondo come questo. Questo dispiacere, questo, non lo so, questo senso di smarrimento si è ancora accentuato con la discussione al Parlamento italiano e quando una certa sinistra ha votato, qui non mi importa che ora mi lapidate, cioè, sto dicendo anche dalla mia parte da donna del sud come sto vivendo questa situazione. Quando una parte importante, non solo numericamente, della sinistra è stata d'accordo con questo di combattere il terrorismo usando ogni mezzo, anche e soprattutto in questo caso quello militare. Penso che questa situazione di oggi sta delineando ancora un assetto geopolitico del mondo ancora più definito. Ora, l'ha detto ancora una volta il Presidente del pianeta, o con me o contro di me, le cose stanno così. E con me o contro di me vuol dire tanto anche per i rapporti economici, per i rapporti sociali e culturali fra nord e sud. E questo secondo me non farà che incrementare la situazione di, usiamo la parola povertà, di impoverimento del sud, perché come tutte le guerre, come tutte queste cose, hanno anche altro tipo di risvolti. C'è qualcuno che ci guadagna, c'è l'industria bellica che ci sta guadagnando con questo. Oramai ci siamo così abituati che vediamo in televisione che passano questi aerei e buttano queste bombe, sembra un film, cioè penso che non colpisca più di tanto nessuno. Tutto anche perché le cose ci arrivano abbastanza filtrate, abbastanza in un modo che dobbiamo reagire in un modo o in un altro. Dunque, a partire da questo scenario mi trovo in grande difficoltà a parlare di noi. Dunque, se dobbiamo ragionare in termini che deve esistere un noi a partire di una condivisione, di un'interazione, di un mettere a frutto, mettere a produrre le diversità che si possono trovare in un determinato territorio, questo non può che partire da un concedere pari dignità agli altri, e questo precisamente è quello che mi sembra che manchi in questo caso. Cioè il mondo è diviso, ed è diviso in chi ha e in chi non ha, in bianchi e neri, e dunque queste non ce le siamo inventate noi, queste divisioni, ma ci sono e hanno un valore, interagiscono, e noi vediamo i risultati di queste divisioni. Per cui a questo punto bisognerebbe ridefinire, ridiscutere un po' tutto quello che ha fatto sì che le cose stiano oggi come stanno. Dunque, se dobbiamo parlare a livello locale e parlare di un noi, questo magari lo possiamo fare in buona fede, magari seguendo anche tutte le indicazioni che dava Pap prima. Questo però deve partire, insisto, dal concedere uguale dignità agli altri, no? Che non sia basata sulle categorie che normalmente determinano queste cose. Diceva un filantropo europeo, che ha avuto anche il premio Nobel per la pace, molto amato: l'africano è mio fratello, ma è mio fratello minore. Se non si riesce a superare questa visione di fratello minore, dunque quello che deve comunque essere gestito, quello che devo decidere io cosa fare, perché tanto lui è più piccolo, e se non riusciamo a superare questo, sia nella visione della politica generale che a livello più basso, più concreto, più del rapporto fra noi, difficilmente questo noi si può costruire. Poi per arrivare a noi, alla concretezza, ci siamo noi, quelli di cui ha parlato tanto Pap, gli immigrati che siamo qua oggi. Che insisto in dire che ci siamo spostati per venire ai luoghi dove la ricchezza si consuma. Non perché non ci sia come risorse naturali dalle nostre parti, sino perché è tutta concentrata da una parte del pianeta. Ma siamo questi, da qualcuno considerati fratelli minori, quelli che siamo qua oggi. E dunque, se non si riesce a superare anche questa visione che vede in noi esclusivamente dei poveri disgraziati che vengono qua per la sopravvivenza, se non si pensa che la condivisione culturale è una ricchezza, ma non soltanto dal punto di vista della retorica, perché si dice va bene, se siamo diversi siamo di più, siamo più carini, se non si dà un minimo di rispetto ad altre cosmovisioni, ma anche ad altre concezioni politiche, altri modi di vedere il mondo, è molto difficile che questo noi ci possa essere. Dunque io concludo il mio intervento così poco allegro e magari che non dà nessun contributo alla discussione di stasera, però ognuno deve partire da sé e io in questo momento mi sento così ed era meglio che dire di no, Ivan. Dicendo quello che ci siamo detto molte volte nel campus delle donne dell'anno scorso, chiedevamo equità en la diversità, detto in spagnolo da una delle ospite straniere, cioè proprio perché siamo tutti diversi, che non è vero che siamo tutti uguali, proprio perché siamo tutti diversi, abbiamo il diritto ad accedere, ad avere accesso alle stesse risorse materiali e alle stesse risorse simboliche delle società. E solo a partire da questo presupposto, e se ci mettiamo su un piano paritario di reciprocità, si può costruire questo noi, altrimenti il noi sarà sempre fatto da fratello maggiore, fratello minore o sorella maggiore e sorella minore. Bisogna una sterzata forte, ma anche nel modo di noi concepire le cose e poi soprattutto nel modo di agirle.